c'è solo merda e violenza in TV. Di social e giornali non ne possiamo più, ma io me ne sbatto davvero i coglioni, perché so già cosa fa. Tutti i giorni ascolto lo zoo, rido come un pazzo e non mi fotti un cazzo. Dalle 2 alle 4 tu mollami, io so come